Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Buonasera, buonasera e ben ritrovati a Radio Cooperativa. Proseguono le nostre serate dedicate alla musica emergente e soprattutto dal nostro territorio nazionale. Rimaniamo anche questa settimana nello spazio del rock dopo la settimana scorsa e ci fermiamo ancora in terra veneta e precisamente torniamo in territorio padovano. Rock Wave Live, Io mi racconto, ha il piacere di aprire i microfoni questa sera per la band dei Capobranco. Ciao ragazzi! Ciao, buonasera, ciao, buonasera, buonasera a tutti! Abbiamo Alex Boscaro, voce e chitarra, Valerio Nalini, basso e voce, ed Enrico Carugno alla batteria. Ho detto tutto bene ragazzi? Giustissimo. Ho sbagliato qualcosa? No, ci siamo. Entriamo subito nel vivo di questo programma e nel vivo di questo gruppo emergente. Perché sono qui con noi Capobranco? Prima di tutto per parlare della band e della loro musica in generale, ma soprattutto per presentare il loro ultimo inedito Fuori dal Tempo per l'etichetta Sorry Mom in collaborazione con Jet Glove Recording. Questo è corretto, no? Sono collaborazione o... No, in realtà l'etichetta discografica sarebbe Jet Glow. Sì. E siamo in collaborazione con Sorry Mom, che è invece il nostro, diciamo, management. Perfetto, perfetto. E, ragazzi, allora, una band tutta padovana? Sì. Chi più e chi meno. Una cioè, band qualcuno di non vicini si... di casa, tra l'altro. Qualcuno, dai, lo adottiamo anche se non sarebbe proprio padovano, però vabbè, dai, diciamo così. Chi è fuori sede? Ma sono padovano di adozione ormai da 24 anni. Allora... È un infiltrato. Allora, allora possiamo definirti padovano, punto. Esatto, sì. Ed è un gruppo, possiamo definirlo semplicemente, dopo aver ascoltato la vostra musica, semplicemente rock, possiamo dire così? Direi di sì, per le sue sfaccettature. Però sì. Se c'è da trovare una definizione, rock è sicuramente quella più adatta e incisiva. Sì. Certo. Sì, no, infatti è sempre una domanda abbastanza insidiosa questa, perché... Adesso con tutte le etichette varie che ci sono, mille sottogeneri, quando ci fanno questa domanda ogni volta magari esitiamo un attimino e diremo come possiamo fare per essere veramente alla moda? E in realtà... È difficile. In realtà è rock. Ecco, la parola più semplice è questa. Sì, sì. Mettiamoci dentro tutto. Ufficialmente i Capobranco nascono nel 2012, ma eravate comunque insieme... già dal 2009, no? Quindi chi mi fa un po' la storia di questo gruppo? Sì, in realtà anche da prima, perché prima che nascesse Capobranco suonavamo già insieme in un'altra band che si chiamava The Vintage. Io ed Enrico da 2005, o forse anche prima, suoniamo insieme. Poi si è aggregato anche Alex. La formazione era diversa perché eravamo in quattro, c'era un altro cantante solista. E quel gruppo si è sciolto poi nel 2009, appunto. Sta parlando, scusate, Valerio, perché non siamo in diretta video, quindi vai Valerio. Si sono abituato a stare in TV, quindi a volte mi perdo. E quindi da quel momento lì ci siamo trovati senza un gruppo, però avendo ancora voglia di suonare insieme, perché insomma ci siamo trovati bene, sia personalmente che musicalmente, allora abbiamo deciso di andare avanti. Quindi così, questo gruppo è rimasto tale quale come è nato ancora rimane. A dire il vero, io non ero un cantante, quindi abbiamo fatto un piccolo periodo di prova come tributo a Jimi Hendrix, però sì, la voglia di scrivere canzoni originali era tanta e abbiamo fatto questa scelta che esatto. era abbastanza un... abbastanza improvvisata, perché non si sapeva cosa ne sarebbe nato. Esatto. Ma alla fine abbiamo scelto, insomma, di farmi cantare. Di farlo cantare e di fare canzoni nostre. Prima, infatti, siccome noi ci annoiavamo a fare le cover, allora abbiamo detto: perché non annoiare gli altri invece di annoiare noi? Non e facciamo delle canzoni nostre. Non penso, perché ascoltato il vostro ultimo lavoro, no, sicuramente non si può parlare di noia. Come dicevamo prima, perché direi adesso di entrare nel vivo anche della vostra musica, voi siete qui per presentare il vostro ultimo singolo, Fuori dal Tempo. Mi parlate un po' di questa canzone, ragazzi, chi me ne parla? Beh, vado io, dai. Valerio. Questa canzone è appunto l'ultimo singolo, è stata una delle ultime che abbiamo scritto quando stavamo preparando le registrazioni dell'album. A livello musicale la canzone è un po' anomala per noi, perché pur rappresentandoci bene per molti aspetti, ha un sound, se vogliamo, particolarmente leggero rispetto alla media, con questo riff di chitarra molto estivo quasi, no? Che fresco, ecco, direi che è più fresca della media delle nostre canzoni. Un'estate fresca. magari. e di cosa parla la canzone? Fondamentalmente il tema è uno, magari il testo non è chiarissimo, ma lo racconto un po' a chi vuole leggere tra le righe. Anche perché il rock rimane sempre un messaggio, quindi ci si prova. Sì. E il testo parla fondamentalmente della perdita di tempo. Si parla di tempo che scorre inesorabile, è un po' banale questo concetto, se vogliamo. Non è banale la riflessione che ci sta dietro, che in realtà è semplice, ma è poco scontata, perché la fanno in pochi. Ossia che tendiamo a venire risucchiati dalla routine quotidiana, crescendo col passare degli anni, perdendo di vista l'entusiasmo di fare le cose, di esplorare, di cercare di inseguire i propri sogni, se vogliamo. Di cambiare, di soddisfare i nostri veri desideri, e finiamo per appiattirci su un déjà vu, una routine dalla quale non alziamo la testa. Nel frattempo il tempo scorre. Cosa succede prima o poi? Che magari te ne accorgi e lo rimpiangi. Rimpiangi, certo, di averlo perso, perché rimpiangi tutto quello che avresti potuto fare di più nel frattempo. E insomma, il messaggio della canzone non è certo quello di piangersi addosso, ma pensando di a questo tempo presente. Perso, ma di vivere presente, esattamente, vuole essere di sprono a questo obiettivo. Certo. Allora ascoltiamoci questo primo vostro primo brano di questa sera, non certo l'unico. Ascoltiamoci Capobranco con Fuori dal Tempo. Di questa realtà. finisce fuori da regole imposte per te. Fuori metafora, fuori città, lungo il confine di questa realtà. Curalo e crescerà un fior di ciliegio, un fiore per te, dalle radici di queste orchidee. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24, con trasmissioni d'attualità, di cultura e di impegno sociale. Io ho una curiosità per Enrico, che è il batterista della band. Perché? Perché di solito una passione per uno strumento inizia già da proprio piccolini, no? E invece tu inizi ad approcciarti alla batteria a 14 anni. Sì, 13-14 anni. Sì, perché sì, sì. Una ragazza ti ha portato allo sfinimento. Raccontaci un po' questo. Esattamente, è stato abbastanza casuale. Vabbè, io sono sempre stato appassionato di musica. Però, diciamo, avevo preso in considerazione per un certo periodo di suonare, avevo preso qualche lezione di chitarra, ma non mi era tanto piaciuto. E poi ho lasciato un attimo decadere la cosa, se non che poi, non so, in terza media, adesso non mi ricordo benissimo, comunque mi ricordo che erano le scuole medie, mi era capitata a compagnia di banco questa ragazza che in quel periodo prendeva lezioni di batteria e non faceva altro che parlarmene per tutta la lezione. E siccome appunto finivamo a parlare di musica così, per sfinimento mi ha messo questa pulce e ho voluto provare e me ne sono innamorato. Di lei o di lei? No, della batteria. No, era una bella ragazzina, ma no. Però diciamo che è stato così, è stato abbastanza casuale, sai, i casi della vita che ti portano. Certo. E alla fine lei ha smesso dopo pochi mesi e io sono qua. Come funziona la vita? Sì. Sono... E tu sei anche insegnante? Io insegno, sì. Insegno, quindi... comunque ho la passione per l'insegnamento e portare avanti un pochino la cosa, soprattutto con i ragazzini piccoli, giovani. Certo. Anche con adulti, ma mi piace molto insegnare ai ragazzini. E dove lo fai? Allora, lo faccio a Piave di Sacco, che è un'associazione che si chiama Accademia della Cultura e delle Arti, che fa dei corsi proprio in scuole pubbliche, fa dei corsi pomeridiani, anche propedeutici. Adesso c'è stata la riforma ministeriale, che adesso fanno anche sia le scuole medie sia i licei a indirizzo musicale. Sì. E comunque ci sono dei prerequisiti per poter accedere ai corsi. E questi corsi qua sono anche propedeutici a quella cosa là. Poi insegno privatamente a Ponte San Nicolò, in uno studio che si chiama Rocket Booster. Sì. E anche a Cantarte, che è una scuola che ha una sede sia in via Guasti e sia in via Parliamo San Massimo di Padova. Esatto, sia in via San Massimo. Senti, e se volesse qualcuno scriverti per chiedere delle informazioni per come approcciarsi possono scriverti? Mi trova su Facebook sicuramente, insomma, che io controllo quotidianamente. E posso lasciare una mail? Ma certo, non c'è nessun problema. Ok, vai, che è enricocarugno@libero.it, tutto attaccato, Enrico Carugno. E insomma, il numero di telefono un po' brutto lasciarlo per radio, sì, però insomma, certo. Questi sono due recapiti dove sicuramente io leggo tutto, insomma. Benissimo, quindi anche se eventualmente qualcuno avesse perso qualcosa e non riesce a rintracciarti, sono qui, al limite mi chiede dove posso contattare Enrico, gli do sicuramente tutti i riferimenti. Perfetto, facciamo, ti usiamo come tramite. E riceverai anche una commissione sì. poi ci mettiamo d'accordo alla fine. Grazie. Allora ragazzi, volevo chiedervi, siete in tre, com'è il procedere creativo dei brani di questo gruppo? Non se viene prima il testo o prima la, non è quella la domanda, cioè come vi interfacciate tra di voi? La cosa bella è che di sicuro tutti e tre hanno un ruolo fondamentale nella scrittura, nella stesura delle canzoni. Quindi l'idea, indipendentemente da chi parte l'idea, la si propone durante le prove, si prova magari a gemmare un attimino insieme, si cerca di sviluppare un'idea che possa prendere le sembianze di una canzone. Dopo magari ognuno a casa la registriamo in studio e poi a casa ci lavoriamo ognuno per i fatti suoi, con testi, con abbellimenti, arrangiamenti e così via. Sì, quindi non c'è qualcuno che si occupa più dei testi, più della musica, cioè ognuno ci mette del suo e poi... Beh, i testi in realtà li fa Valerio, stranamente, c'è tanti bassisti nella storia in realtà. Occhio che ti arrivano subito le ire dei bassisti. È vero. No, stavo per dire è strano, ma in realtà non è così strano, perché me ne sono venuti in mente tipo una decina tutti subito, quindi di band col bassista che scrive i testi, quindi. Allora, tre... Non l'ha detto, eh? Evidentemente ci sta guardando. Non l'ho neanche detto. Tre album dal 2012 ad oggi. 2014 esce Capobranco, 2016 esce Il Grande Zoo e il 2019 Indipendenza. Dopo ne parleremo, che ho trovato da un bel salto in avanti. Comunque, siete in tre, io vorrei che ognuno di voi mi parlasse di un album. Chi mi parla del 2014, Capobranco? Beh, Capobranco è stato il nostro primo disco e è un disco, secondo me, molto grezzo e poco prodotto, nel senso che secondo me è quello che più rispecchia noi, le nostre idee e l'essenziale dei Capobranco, nel senso che è stato molto diretto, si sente ancora, secondo me, ci sono delle radici delle band dalle quali si proveniva tutti quanti. È stato anche meno curato dal punto di vista dei testi, nel senso che, almeno dal punto di vista mio, si sente che magari non ci abbiamo lavorato come negli ultimi, insomma. Siamo comunque soddisfatti del risultato, perché ancora adesso, ad esempio, io ascoltandolo sento delle cose molto interessanti e insomma ci sono particolarmente affezionato. E tra l'altro si sente un po' dal primo al terzo si abbandona, però io, questo è il mio parere, no? Si abbandona un po' il filo conduttore dal primo album, dal Capobranco, però ancora nel secondo, su Grande Zoo, si sente ancora un po' un legame con Capobranco. Sì, se vuoi parlo io di questo. Il Grande Zoo Rico. È sicuramente tra i... penso un po' per tutti, ma io parlo per me comunque. È il disco un pochino meno chiaro, perché secondo me è proprio un punto di passaggio, no? Dove tu magari stai cercando di andare a parare da qualche parte, però ancora non hai la consapevolezza per farlo. È più ci sono delle cose che mi piacciono, delle cose che ovviamente, come questo capiterà sempre, che uno poi riascoltando il proprio disco ripensi, no, quella cosa adesso col senno di poi siamo bravi tutti, come si dice, ma ecco, ha incontrato secondo me anche un po' meno il gusto dell'ascoltatore per quel discorso lì, nel senso che è pieno di buone intenzioni, secondo me, anche qualcosa di riuscito, ma non tutto al 100%. Lo vedo proprio come una fase di passaggio tra i due dischi. Il primo molto grezzo, molto immediato e sentito. Il secondo invece che vuoi un attimo raffinarti, però ancora sei lì. Insomma. Sì, una cosa fondamentale è, secondo me, che nel Grande Zoo iniziamo ad avere un'idea sul dove andare a parare, nel senso che è un concept album nel quale c'è un argomento principe e canzoni e ogni canzone tratta questo argomento, mentre nel primo disco ogni canzone ha una storia a sé, parla di argomenti completamente staccati l'uno dall'altro. Quindi dà il grande Zoe ha il merito di iniziare a iniziamo a dare importanza al messaggio che vogliamo dare, il che si concretizza secondo me al massimo nell'ultimo disco. Valerio, parliamo dell'ultimo, Indipendenza. Qui c'è secondo me c'è un grande salto, per tanti motivi che poi ne parleremo sicuramente, ma anche a livello di sonorità, di orecchiabilità per chi ascolta. Io parlo non da tecnico, mi metto dalla parte di chi ascolta. Sì, allora, senza appunto voler entrare dal punto di vista dell'ascoltatore che può trovarlo più o meno orecchiabile, più o meno riuscito, sicuramente, seguendo il filo anche del discorso degli altri ragazzi, c'è da dire che è probabilmente il primo vero disco del capobranco in quanto tale, perché appunto, come diceva Alex, il primo album era un po' grezzo, non vuol dire riuscito male, ma semplicemente era forte, si sente l'influenza delle esperienze precedenti più che un'alchimia di gruppo. Il secondo album è stata un'evoluzione di quel concetto, comunque una maturazione c'è stata, come si diceva, e in questo album Indipendenza, quello appena uscito, è il primo probabilmente in cui si arriva a un punto d'arrivo, ovviamente non definitivo, ma punto d'arrivo inteso come di incontro tra musicisti, tra idee. Emerge un'alchimia che è finalmente maturata, una band che ha raggiunto e messo su disco la propria personalità, sia dal punto di vista musicale che se vogliamo delle liriche, perché dal punto di vista musicale abbiamo fatto anche una scelta che è per la prima volta quella di registrare l'album in presa diretta, quindi suonando tutti insieme dall'inizio alla fine, con meno sovraincisioni possibile. Le uniche sovraincisioni sono relative alle voci, che ovviamente per questioni pratiche non possono essere registrate insieme agli strumenti, e a qualche assolo di chitarra, ma per il resto le canzoni basso, chitarra e batteria sono suonate e registrate in presa diretta. Per quanto riguarda i testi c'è un'evoluzione anche qui, nel senso che, come diceva anche Alex, mentre il primo disco era un esperimento un po' per tutti, Alex provava a fare il cantante, io con l'aiuto un po' di tutti provavo a fare il compositore di testi, noi provavamo a essere una band. Io rompevo le balle a tutti. Qui invece c'è un ragionamento, ci abbiamo messo un po' a scriverlo, abbiamo lavorato con più cura sugli arrangiamenti, sulla pre-produzione dell'album anche, poi ci torniamo magari, perché qui c'è il merito anche di altre persone, sì, ovviamente. Poi ci torniamo, sì, perché è importante. E abbiamo anche qui un filo conduttore, se vuoi ne parliamo adesso. Sì, ne parliamo dopo, perché adesso vorrei far ascoltare anche un po', benissimo, un po' di musica. Quindi se devo sintetizzare, diciamo che da un primo album in cui il capobranco nasce, il secondo album si evolve e in questo nuovo disco il capobranco si mostra in quanto tale. Indipendenza. È un titolo un po', credo, a doppio senso. Lo facciamo spiegare a Enrico o... In realtà questa cosa qui dovrebbe spiegartela bene Valerio, visto che è l'ideatore. Allora, Valerio, due parole veloci e poi vi lascio spazio alla musica. Sì, indipendenza, il gioco di parole è palese, non è molto raffinato, ma esprime un concetto che è quel filo conduttore che ti accennavo prima dell'album, quindi la tendenza dell'uomo a essere dipendente e schiavo di qualcosa, di qualcuno, a livello emotivo, a livello fisico, può essere una persona, può essere una sostanza, e quella è la dipendenza. Nel frattempo l'uomo non si stufa mai di cercare l'indipendenza, Quindi un contrasto tra questa ricerca di una libertà e la tendenza invece a rifuggire questa libertà, a essere schiavi di qualcosa, di qualcuno. Miele di Vespa è dell'album Il Grande Zoo, vero? Sì. A voi la musica, ragazzi. Facile dir che sei cambiata, ma non è vero, perché ormai ha la maschera e si vede che assomigli a quello che sei sempre stata. Profuma dell'estate, inebria come il vino, il frutto che hai in mano, ma dolce come il sale, intriso di veleno, è il miele di Vespa che sei. E guardami come non hai fatto mai, svelami cosa davvero c'è dietro gli occhi tuoi. Nel buio della notte ascolto i tuoi respiri, cacciando dalla mente amichevoli consigli. Mi accorgo nel silenzio di essere tuo ostaggio, accarezzando il corpo del reato. Sei sempre stata brava a ricamare relazioni, perché hai imparato presto a farti strada tra i ricordi, e che non è la verità quel che interessa alle persone, ma sentirsi rafforzati nelle proprie convinzioni. Ed ora guardami come non hai fatto mai, cosa davvero c'è dietro gli occhi tuoi, se non vuoi mi basterà sentire ancora il tuo sapore per liberarmi da te. Rockwave con Alberto Prisco, tutti i mercoledì dalle ore 19 alle 20:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. È emozionante sempre sentire queste chitarre in acustico, dal vivo è sempre una cosa meravigliosa. Ragazzi, Miele di Vespa di cosa parla? Miele di Vespa parla di una relazione, non necessariamente una relazione amorosa, una relazione tra un uomo e una donna, ma semplicemente un rapporto tra due persone in cui una delle due apre gli occhi e si rende conto di un'ipocrisia di fondo che ha caratterizzato la relazione fino a quel momento. Si tratta di una richiesta fondamentalmente alla controparte, all'altra persona, una richiesta di onestà e di trasparenza. Bellissima. Parlavamo prima, ritorniamo un po' nell'album, nell'ultimo album Indipendenza, perché per voi il maggio 2018 è una data importante, perché si vola a Chicago. Guarda, per me è stato un periodo molto molto importante, nel senso che 10 giorni prima di partire per Chicago mi sono sposato e ho consumato le mie vacanze matrimoniali. Questo è Alex che parla, eh? Sì, con mia moglie prima e poi a Chicago a coronare un sogno che inseguivo da quando ho iniziato a suonare, fondamentalmente. Non hai consumato con noi, però possiamo specificarlo. No. Beh, sotto certi aspetti, musicalmente sì, possiamo dirlo, no? Lo sai che noi quando suoniamo insieme abbiamo certe tendenze particolari. No, comunque sì, per me è stato il coronamento di un sogno che avevo sin da quando ho iniziato a suonare. E penso Steve Albini, l'Electric Audio e l'esperienza di per sé era una cosa che tutti sognavamo. Era il diciamo la punta dell'iceberg, almeno penso che spero non lo sia, ma per adesso è diciamo l'apice della mia carriera come musicista. Ecco, diciamo anche una cosa, perché magari noi lo diamo per scontato, ma Steve Albini è un musicista, ma più che altro penso che sia anche, nel caso vostro, anche un ingegnere del suono, no? Questo per voi è stato fondamentale. Quindi diciamo anche chi è Steve Albini. Beh, Steve Albini è noto come produttore, anche se lui non ama definirsi tale, perché lui ha la filosofia di intervenire il meno possibile sulla scrittura dei brani. Però è noto come produttore di musicisti celebri come Nirvana, sono sicuramente più famosi. Poi ha collaborato con i Foo Fighters, con The Pixies, PJ Harvey, per dire i nomi più conosciuti. Poi comunque una persona che non ha mai abbandonato un'attitudine underground, e quindi gli è capitato di lavorare un giorno con delle superstar e la settimana dopo magari con una band come noi. Certo. Tant'è che nella sua carriera ha prodotto, si stima, più di 1500 album, quindi una creatività senza fine. E sicuramente lo abbiamo scelto anche per le sue caratteristiche, che sono quelle di cui ti parlavo un po' prima, che è capace, è quello secondo noi mancava un po' nei dischi precedenti, è capace di catturare l'anima più vera della band a livello musicale, proprio per le modalità di registrazione che ha e per le competenze tecniche sicuramente che ha accumulato nel corso degli anni. Evidentemente poi ha anche un talento personale suo, perché era già molto giovane quando lavorava con band affermate. Devo dire che per la prima volta sono rimasto a bocca aperta a vedere all'opera un ingegnere del suono, la maestria con cui lavorava, con cui curava i dettagli nel posizionamento dei microfoni, nel gestire il mix in questo tastierone di mixaggio in cui, avendo registrato su nastro e non in digitale, il mix avveniva in tempo reale finché scorreva la canzone. Quindi per esempio, aveva, per raccontarti un aneddoto, un piccolo aneddoto, aveva questo bastone che lui chiamava il mix stick. Mm-hmm. Quando c'era da creare un momento di silenzio nella canzone, lui lo prendeva, lo posizionava sul mixer e tirava giù tutti i canali insieme. Bellissimo. Un'esperienza incredibile. Ecco, comunque vi invito ad andare sul profilo Facebook del gruppo I Capobranco, lì ci sono un po' anche dei filmati dedicati a questa esperienza, che vi invito a farlo perché l'ho fatto anch'io, perché è interessante, perché si vede veramente quello che sta parlando adesso Valerio, si vive un po' attraverso questi filmati, e si ha la possibilità di vedere, che non si ha sempre questa possibilità veramente, di vedere anche cos'è uno studio di registrazione, quanto sia l'idea di quanto lavoro che c'è dietro, perché noi siamo abituati magari a sentire il prodotto finito, ma abbiamo poca idea di cosa veramente ci sta dietro, quanto tempo ci vuole effettivamente a costruire una canzone. Esatto. Leggevo una cosa di Albini, ragazzi, cioè ve lo dico così come l'ho trovata scritta, no? Secondo Albini, far entrare il produttore nelle sessioni di registrazioni distrugge spesso il lavoro del gruppo, in quanto dovrebbe semplicemente occuparsi di risolvere eventuali problemi e di catturare il suono migliore, non di controllare l'opera degli artisti dal punto di vista musicale. Vi trovate con... È esattamente il suo pensiero. Per quello lui ci tiene a non farsi mai accreditare nei dischi come produttore, perché di solito la figura del produttore è legata anche un pochino alla direzione artistica, no? Cioè comunque vuole mettere abbastanza bocca o dei paletti anche a livello creativo, cosa può suonare meglio, cambia questo, cambia quell'altro. Lui invece no, lui addirittura quando gli chiedevamo un parere, lui rispondeva I don't have an opinion, sempre, ogni volta, non voleva assolutamente dare nessun parere per quanto riguardava il brano. Mm-hmm. Lui pensava solamente a ascoltarti, capire ciò di cui avevi bisogno per far venire fuori bene la tua, certo, idea della cosa, e senza cercare di influire minimamente per farti un esempio, ogni volta che chiedevo se era possibile fare una sovrincisione di chitarra, la domanda sua era: ma dal vivo la suonerai questa chitarra? No. No. E quindi non la devi registrare. Questa era come si chiudevano le diatribe tra di noi. Quindi oltre al talento sicuramente bisogna essere, per fare un passo in più, voi siete la prova, bisogna anche avere dei grandi professionisti. Poi a un certo punto, se tu vuoi fare un salto, deve essere così. Beh, sì, bisogna anche, se vuoi essere pronti a lavorare con personaggi del genere. Ora non è per dire che noi siamo dei mostri, semplicemente sono però tanti anni che suoniamo, e soprattutto che suoniamo insieme. Credo che qualche anno fa ci avrebbe messo in grossissima difficoltà a lavorare in un modo simile, anche perché si è messo alla prova sotto tutti i punti di vista, sia musicale, perché appunto registrare tutti insieme in presa diretta è comunque una prova, perché basta che uno sbagli per dover ripartire da capo con il brano, sia dal punto di vista mentale, psicologico, perché le sessioni sono molto lunghe, molto intense, e chiudere i lavori nel tempo predefinito non è cosa scontata, perché i giorni comunque erano stabiliti a calendario da mesi, e per fortuna è andato tutto liscio. Abbiamo finito anche con un pelo di anticipo. Abbiamo avuto un giorno libero in più. Sì, diciamo che in questa era... Perché magari la gente non si rende conto spesso, nell'era digitale dove Enrico, si utilizza molto il discorso dell'editing, cioè del prendere le parti dei vari strumenti e creare questo Frankenstein che poi diventerà il pezzo, quindi prendere una parte da una take, una parte da un'altra e poi incollarle insieme. Diciamo che questa cosa qui ha un attimo anche disabituato il musicista alla performance di qualità, nel senso che registrare in questa maniera, dove non solo devi registrare bene dall'inizio alla fine, ma lui poi ti dice ti è piaciuta, perché se non ti è piaciuta, guarda che ci dobbiamo registrare sopra. Una volta che ci abbiamo registrato sopra, quella di prima è andata, mentre adesso puoi registrare decine e decine di take e poi dopo o scegliere la migliore o addirittura andare a prendere pezzi dalle varie take per poi creare la, chiamiamola, take perfetta o comunque la meglio possibile, insomma, col materiale che ha a disposizione. Lavorando in questa maniera non si può fare. Magari ci può essere l'errore, la piccola imperfezione, ma diventa tutto, almeno a mio parere, molto più musicale. E noi, una critica che ci è stata fatta spesso anche sui dischi vecchi, la gente che ci veniva a vedere dal vivo diceva: ma com'è che dal vivo quello che fate viene fuori molto meglio, è molto più bello, è molto più piacevole e l'intenzione è migliore rispetto a quello che senti in disco? Probabilmente può essere anche quello, il fatto che la ricerca della perfezione, del fatto che non ci sia mai un errore, magari toglie anche un pochino di umanità quello che stai facendo, la rende più corretta se vogliamo, ma meno personale. Jimi Hendrix aveva detto una volta una frase in un'intervista, ha detto: sono diventato talmente famoso che adesso copiano anche i miei errori. Sì. Per dire, sì, no? Sì, sì. Io direi di dare spazio alla musica. Tra l'altro, Indipendenza, mi sembra che ci sia proprio la voce all'inizio di Steve Albini, no? Se non sì, mi sbaglio. Corretto. Proprio le due parole le sentiremo veloci veloci. Due parole su questa canzone, chi me ne fa? Enrico, Valerio, Alex? Allora, questo è un po' il seguito di una canzone, se vogliamo, che del grande Zoo, che si chiama Il rock è fuori moda, in cui... Si prendeva atto di questo fenomeno, dopo ne parliamo. Questa è l'evoluzione, se vogliamo, nel senso che si ribadisce un po' il concetto. Nel frattempo però è emerso questo fenomeno indie. Tanti ci dicono: ma come, perché prendete in giro l'indie? Siete invidiosi? Si citano dei musicisti in questa canzone. No, non è invidia, cioè un po' anche di sana autoironia nel chiedersi un po' retoricamente come si fa ad avere successo, perché loro sì e io no. Spiegateci i vostri segreti. Allora ascoltiamoci Indipendenza dei Capobranco. Ho un tavolo nella testa, se parliamo di musica, un anno luce mi separa da chi ha poco meno della mia età. Essendo forse troppo fissato con i grandi del passato, mi rendo conto adesso di essere ormai fuori dalla realtà. In sintesi, voglio imparare a fare l'indie come in Calcutta i giornalisti. Ho perso forse il tempo, ma non la mia caparbietà, alla ricerca del segreto che nasconde dietro. Come si fa per avere tutti esauriti, palazzetti sempre pieni, nelle playlist più trendy, stare al primo posto, fare la rockstar. We'll be right back. Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Ragazzi, io la settimana scorsa ho avuto come ospiti la band dei Dead After Weekend e ho chiesto appunto, leggendovi un po' così, che avrò ospite prossimamente, e poi è stata fatalità la settimana successiva, i Capobranco. E allora gli ho chiesto di fare un saluto, un pensiero per i Capobranco, e mi hanno lasciato questo. Beh, ovviamente lo deve lasciare Rico perché, diciamo, è il più affezionato, ecco. Beh, allora, svelo un piccolo segreto. No, il batterista è Capobranco. Il Capobranco sono io. È il mio... No, il batterista il Capobranco. Enrico, che saluto, è il mio maestro di batteria. Ormai sono 3 anni che sto studiando con lui. Alex è un amico di vecchia data, tra l'altro... un componente dei Baby Root, di quel gruppo che dicevo che mio cugino suonava, che saluto nuovamente, e Valerio è un altro amico. Sono 3 ragazzi fantastici, sia dal lato umano, che è la cosa più importante, ma anche dal lato musicale. Sono 3 bellissime persone, sopra il palco, giù dal palco, nella musica, sanno comporre, sanno dare qualcosa di nuovo. Perché quello che ho ascoltato, questo ultimo album che hanno fatto, è molto ma molto bello. E niente, il mio messaggio è che possano realizzare tutti i loro sogni, perché oltre ad averne diritto, è una cosa giusta. È una cosa giusta, perché chi impegna la sua vita nella musica così e produce questo tipo di musica deve avere risultati. Sì. Ecco ragazzi, io penso... Mi sono commosso. Nego tutto, non li conosciamo, mai visti. No, scherzo. Grazie, grazie mille, veramente commovente, Henry, che mi chiama maestro, ma a me non piace essere chiamato. Io mi sento di più un coach. Si sono illuminati gli occhi comunque quando ha parlato di te. Maestro è troppo, è troppo. Se avessero tutti la sua sensibilità saremmo famosi, come giusto che... Scherzo, grazie Henry, grazie mille. Prepariamo il dimmi, scusami. Tra l'altro complimenti a loro, perché stanno facendo veramente bene, insomma. Sì. Quindi, a parte il discorso dell'amicizia, che comunque è piacevole sentire certe cose dagli amici, ma è doppiamente bello anche sentirlo da gente che comunque macina musica, fa musica e quindi sa bene di cosa sta parlando. Sai, molto spesso ti arriva il complimento dall'amico... che sì, bravo, però non sai mai, no? Lo prendi un po' con le molle, perché come dici, vabbè, è un amico, chissà cosa pensa in realtà, mentre queste cose qui, insomma, fanno bene al cuore. Io direi di fare un altro live, ragazzi, cosa dite? Cosa ci fate ascoltare? Cosa ci proponete? Faremo Aria, che è un pezzo dell'ultimo disco, è il pezzo che chiude il disco e solitamente chiude anche i nostri live. È una canzone che per noi è molto importante, a noi piace molto e vorremmo anche un riscontro da parte degli ascoltatori. Schizofrenico, mi sveglio calmo e quasi ascetico. protetto da umore anestetico. Certe mattine mi dimentico di questo mondo nevrastenico. Mi sveglio calmo e quasi ascetico, con un respiro mi riempio di aria. Aria. Aria. Aria. Certe mattine incontenibili, pressioni spingono i miei limiti, mi sveglio teso e vulnerabile, un pesce in una boccia fragile. Certe mattine insostenibili sono più dolorosi lividi. Mi sveglio teso e vulnerabile, con desiderio incontrollabile di aria. Aria. Aria. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24, con trasmissioni d'attualità, di cultura e di impegno sociale. Ecco ragazzi, bellissima. E perché avete deciso che è il brano che chiude i vostri concerti? Chiude anche l'album. Un brano un po' più riflessivo. Ci sembrava una buona chiusura dopo tanta energia. I live, ragazzi, come va? Ne avete fatti parecchi, no? Se non sbaglio, durante il vostro percorso. Sì, in generale. Anche all'estero, mi sembra. Sì, siamo stati in Svizzera un paio di volte e poi una tantum è stata una toccata e fuga alle Canarie. Bella d'estate, è stata una bellissima serata. Sì, abbiamo suonato tanto, ma adesso per quanto riguarda questo disco abbiamo fatto la presentazione dal vivo all'Hall a fine gennaio, qui a Padova. Adesso stiamo mettendo insieme le date del tour. Ne abbiamo 7-8 già in calendario, ma per rimanere sempre aggiornati consigliamo di seguirci sui social, ovviamente, ma per avere un punto di riferimento unico dove avere tutti i collegamenti e anche il calendario dei live sempre a disposizione e aggiornato, il sito capobranco.net. E lì trovate proprio in apertura di pagina, c'è proprio le date dei live. veniamo un po' al parlare anche dell'ultimo brano che chiude la serata, no? Perché leggevo tempo fa appunto che si parla continuamente di questo rock che si va un attimo spegnendo, che non ha più tante cose da dire, che ormai il genere musicale è altro, eccetera. Io non sono d'accordo su questo, perché i gruppi che vengono qui ne sono alla prova. Forse magari all'esterno non si rendono conto di cosa veramente ancora c'è di musica rock sotto. È vivo, è vivissimo, io lo vedo. Voi cosa ne pensate di questo? Ma allora, che il fatto che il rock non ci sia più, ne dubito, sinceramente, perché sennò non si spiegherebbe il perché. Scusa, un'altra cosa, scusa, ma tu parli a livello di musica italiana o in generale? No, si parla anche in generale, non solo. No, in generale è assurdo, perché sennò non ci sarebbero tutte queste band che vengono fuori, ma anche si va in Germania. Secondo me è un discorso magari di attenzione. È più un discorso che c'è meno attenzione rivolta al rock, ma semplicemente perché chi veicola, un attimo, mi dà fastidio anche chiamarle mode, perché sennò diventa anche abbastanza banale come cosa, ma chi veicola l'informazione musicale, diciamo che il rock è un genere che è stato per il momento un attimo messo da parte, ma non credo assolutamente che non ci sia. Il fatto che non sia di moda in questo momento il rock non sta a significare che il rock sia morto, nel senso, certo. Adesso siamo va d'accordo. Di moda il trap, questo genere, e ad esempio a Sanremo si è presentato, adesso non mi viene il nome, ma si è presentato un trapper che ha cantato Rolls Royce, non mi ricordo. Questa è una canzone trap di un trapper, però una canzone rock di un trapper. Quindi alla fine si possono avere mode, si cerca di fare qualcosa di originale, ma si va sempre a pescare dalle radici. Le radici sono il blues e sono il rock, che ne è una sì. conseguenza. Poi ci posso aggiungere una cosa, più per me più che un discorso musicale, proprio di musica, di stile di musica, è forse che il rock un pochino ha perso quella sua idea di linguaggio di rottura che magari poteva essere fino a un po' di tempo fa. Ha vissuto degli anni in cui era diventato molto di moda, molto mainstream e quasi musica da centro commerciale, e di conseguenza un pochino adesso è affossata e sono venuti fuori altri generi, tipo magari, come diceva lui, la trap, che invece rispecchiano un pochino di più il linguaggio di rottura che possono avere i ragazzi di adesso, e magari li identifica un pochettino di più, mentre il rock odierno forse è più identificante per gente che non ha 14, 15, 16 anni, magari ne ha un pochino di più. Allora mi sorge spontanea una domanda. A me? A te. Sì, dimmi. Il trap ci sta, lo riesco a interpretare come spirito di rottura e di ribellione giovanile. Ma Calcutta, che rottura è? Rompe. Attenzione a cosa si risponde. Ma perché mi fai questa domanda a me? Scusa. Perché lì. Calcutta anche identifica i non più giovani. I non giovani. Te lo ricordi quello di MTV, il non giovane? Sì, sì. Ecco, sì. Quel tipo di target diverso. Esatto, un target che non è più giovanissimo, ma non è neanche esageratamente adulto, mettiamola così. Saremmo noi quindi, questi qua. Questo target saremmo noi. Beh, tu oramai sei bollito da un pezzo. I vostri riferimenti web, ragazzi. Allora, noi abbiamo una presenza social abbastanza diffusa. Siamo su Facebook, su Instagram, su YouTube, ma senza dare i singoli link che tanto poi vengono dimenticati, ricordo ancora una volta il sito internet, perché poi da lì, cioè, basta cliccare per arrivare su qualunque social si voglia, capobranco.net come base di partenza, lì c'è tutto. E poi ricordiamo a tutti che per chi non volesse comprare il disco ci può ascoltare gratis su Spotify, nel senso che ci siamo su tutti i portali digitali. Avete fatto anche disco in vinile? Sì. Sì, sì, sì, abbiamo il disco in vinile, questa volta qua abbiamo detto registrato in analogico, bisognerà il, fare il nastro vinile. Rende bene su disco. Ragazzi, io do sempre verso la fine 30 secondi a ogni componente del gruppo, perché a volte capita che non riesco a chiedere quello che magari il gruppo si aspettava che chiedessi, oppure se avete bisogno di fare un ringraziamento particolare, io vi cedo il microfono 30 secondi ad ognuno di voi e poi passiamo i saluti. Enrico. Allora, io volevo ringraziare, perché non ne abbiamo parlato per tutta la puntata, volevo ringraziare Giacomo Molon, che in realtà sarebbe lui una figura, una di quelle che più si avvicina a un produttore artistico, nel senso che è uno che ha collaborato con noi fin dall'embrione di questo disco e ci ha aiutati a costruirlo, ed è una persona musicalmente molto molto importante per noi, insomma. E quindi ciao Jack. Ciao Jack. Alex. Io volevo ringraziare i due ragazzacci qua, perché è stato grazie a loro che ho raggiunto l'obiettivo e il mio sogno di tutta una vita. Quindi non gliel'ho mai detto, ma li ringrazio. E poi tutte le persone che hanno permesso che fossi in grado di farlo e lo potessi fare, in primis mia moglie Elisa, che saluto, che probabilmente ci sta anche ascoltando, e basta. Ecco, tra l'altro posso dire sempre il mio punto di vista, lo dico sempre, non sono un critico musicale, sono uno che ascolta, una persona che ascolta musica. Anche la tua voce, Alex, l'ho trovata diversa rispetto al primo album. Sì, sicuramente l'ho trovata molto diversa anch'io, anche perché abbiamo, come prima ti dicevo, che abbiamo lavorato molto sul messaggio, sui testi. Allo stesso modo abbiamo fatto un bel lavoro sulla voce, allenandomi a cantare, a pronunciare bene le parole. Tutto ciò che sentivo non funzionava nei dischi precedenti, abbiamo cercato di non ripetere gli errori, insomma, del passato. Valerio. No, molto da aggiungere, è stata una bella chiacchierata, grazie Gil. È stato un piacere essere qui. Passo direttamente ai saluti a casa. Ciao mamma, ciao papà, ciao Roslady, Lanotti e tutti quelli che ci hanno ascoltato. Allora ragazzi, è stata una bella serata. Per me sono tutte belle serate. È stata una bella serata, appunto, dedicata al rock. Vi ringrazio di questa, grazie a te, di questa, grazie, chiacchierata tra amici. L'ultimo brano che chiude, che l'abbiamo introdotto prima, è il rock fuori moda. I Capobranco, Alex Boscaro, Valerio Nalini, Enrico Grugno, vi ringrazio, grazie di essere stati con noi, e grazie e buon proseguimento di serata a tutti, e posso solo dirvi viva la musica! Capaci di adattarci, la storia insegna che fuori moda, nessuno più lo ascolta, nessuno che lo balla, nessuno che si esalta. Ma tornerà di moda il ascolta, nessuno che lo balla, nessuno che si esalta. Fuori moda, ma tornerà di moda il rock. Fuori moda, ma tornerà di moda il rock. Fuori moda, ma tornerà di moda il rock. Fuori moda, da da da, ma tornerà di moda il rock. Radio Cooperativa.